Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se avessimo preso decisioni il 7 ottobre sarebbe stato probabilmente un Natale più sereno di quanto sarà adesso, perché quelle scene nelle grandi città di affollamenti, di gente che si abbraccia e bacia senza mascherina, sono tutti prodromi di infezioni gravi. Quindi è chiaro che se continua così il Natale, altro che Natale sereno, sarà un Natale in cui probabilmente staremo chiusi in casa. E l'avvertimento sulle regole da rispettare un Natale in cui potremmo rimanere chiusi in casa lo ha lanciato oggi sulla 7 Walter Ricciardi, che sapete essere super consulente del ministro della Salute Speranza. Nel frattempo Speranza, il ministro, dovrebbe firmare, ha firmato, adesso cercheremo di capire se già è stata firmata l'ordinanza, che fa passare 5 regioni dalla fascia gialla, cioè quella diciamo meno grave di rischio Covid, alla fascia arancione. Ne parleremo tra pochissimo, così come anche in questa puntata mi occuperò con un esperto dell'annuncio del vaccino Pfizer, che sembra che sia molto molto molto promettente, tanto che sono addirittura volate le borse. Oltre ad aver entusiasmato il mondo, vari leader mondiali eccetera che ne hanno parlato, le borse sono andate benissimo, questo evidentemente perché ritengono che sia attendibile. Comunque poi ne parleremo, come di tantissime cose, una puntata ricchissima anche per questo inizio di settimana. Roberta Giordano con voi sino alle 22. Voi, se volete, avete sempre a vostra disposizione due canali per intervenire: pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i WhatsApp, che è sempre 349-238-6666. L'andamento del Covid-19 in Italia: sono 25.000 nuovi casi, ma a fronte di 43.000 tamponi in meno, le vittime sono 356. Le regioni e le collocazioni per zone: il ministro Speranza sta per firmare un'ordinanza che sposta 5 regioni dalla zona gialla a quella arancione. Per la Campania la decisione dovrebbe arrivare invece domani. Vaccini: l'annuncio di Pfizer e BioNTech, vaccino efficace al 90%, entro l'anno 50 milioni di dosi, volano i listini. Stati Uniti: Trump non cede e Biden si mette al lavoro sulla squadra anti-Covid. La strage familiare nel Torinese: un uomo ha sparato alla moglie che si voleva separare e ai figli per poi suicidarsi. Cibo a domicilio: i rider di Just Eat avranno un contratto regolare dal prossimo anno. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Ci sono 25.000 nuovi casi di contagi, 356 morti nelle ultime 24 ore. Dati che risentono, quelli dei nuovi contagi, del minor numero di tamponi fatti nel fine settimana. Nonostante questo però si moltiplicano gli allarmi e gli appelli, avete sentito anche all'inizio, e poi l'ordine dei medici e Federfarma tra tutti. In crescita le vittime, 356, i contagi sono invece in calo in Italia, ma a fronte, come ogni lunedì, di un minor numero di tamponi, che non sono stati neanche 150.000. I nuovi positivi sono quasi 25.300 contro i quasi 33.000 precedenti, invariato il tasso di positività che rimane intorno al 17%. La regione con più casi, 4.800, la Lombardia, seguita da Campania e Piemonte, che ne hanno subiti intorno ai 3.000. Negli ospedali continua a crescere il numero dei posti letto Covid, che ormai costituiscono il 49% del totale. Un ospedale su due è ben oltre la soglia definita critica del 40%, valore superato in 11 regioni, fa sapere l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Una situazione che spinge medici e infermieri ad invocare un lockdown nazionale. Aspettiamo una risposta dal ministro Speranza già nelle prossime ore, ha dichiarato il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Se il trend non muterà, ci attendiamo la prossima settimana un raddoppio dei ricoveri, gli ha fatto eco gli anestesisti, mentre il presidente di Federfarma avverte: nelle farmacie c'è carenza di bombole di ossigeno. Il Piemonte fa sapere di aver superato quanto ricoveri del 25% il picco della primavera scorsa, e dall'ospedale San Gerardo di Monza l'allarme: adesso siamo noi Codogno. Si aggravano intanto, fa sapere la CEI, le condizioni del cardinal Bassetti. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana è ricoverato in terapia intensiva a Perugia dal 3 novembre. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E della situazione di Monza poi parleremo direttamente in questa puntata col sindaco. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata un'ordinanza che, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, prevede il passaggio in zona arancione dalla zona gialla di 5 regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, a partire da mercoledì 11 novembre. Così rispondo in presa diretta direttamente ad Alessandra, che già chiedeva da quando, da mercoledì 11 novembre. Poi però tra poco ci sarà modo di tornare a spiegare cosa significa questo passaggio dalla fascia gialla a quella arancione. Intanto si attende per domani invece la decisione sulla Campania, che secondo indiscrezioni la Campania dovrebbe rimanere nella fascia gialla. Nel frattempo, a proposito di Campania, restano in quella regione chiuse le scuole, lo ha deciso il TAR, che ha respinto le richieste di sospensione. È giornata complicata quella di oggi per le scuole pugliesi. La mattinata si apre con l'appello del presidente della Regione Puglia Emiliano. Evitate di mandare i bambini a scuola in presenza. Un appello raccolto da molte famiglie. I presidi parlano di un 50% circa di alunni rimasti a casa. Con il caso limite dell'istituto comprensivo Rina Durante di Melendugno nel Salento, con tutti e 750 gli alunni rimasti a casa. Non me l'aspettavo, ammette la dirigente scolastica Anna Rita Carati. Ciò che io mi auspico è semplicemente che una regola duri poco più di una settimana, perché le assicuro che ogni settimana dover cambiare di nuovo la modalità di fare didattica è veramente disorientante. Un pasticcio quello pugliese. Venerdì le due decisioni contrapposte del TAR, poi la nuova ordinanza regionale. Scuole aperte di nuovo fino alle medie come previsto dal DPCM. Ma le famiglie possono sempre scegliere la didattica a distanza. Una specie di scuola a domanda inaccettabile, secondo la ministra Azzolina, che ha chiesto ieri ad Emiliano di correggere il provvedimento e di rendere conto dei finanziamenti arrivati in regione per riaprire le scuole in sicurezza. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiando colore, ritorniamo alle regioni, si inaspriscono anche le misure sulle chiusure. Oggi sono arrivati i primi bonifici del primo decreto ristori, mentre emergono nuovi dettagli sul decreto ristori bis. Nel decreto Ristori Bis ci sono aiuti anche per le future zone arancioni o rosse. Un fondo da 410 milioni, di cui 340 per l'anno in corso, servirà infatti a sostenere le attività in difficoltà nelle nuove zone a rischio. Il decreto stanzia anche 1 miliardo per i contributi a fondo perduto da destinare a una ventina di nuove categorie ammesse ai ristori, come i bus turistici, le scuole di danza, le lavanderie industriali, i trasporti lagunari e i fotoreporter. Le categorie che riceveranno i contributi a fondo perduto salgono così complessivamente a 130. Il governo ha previsto indennizzi anche per le attività aperte nei centri commerciali, in tutto 280 milioni per il 2021. Sul fronte fiscale, nelle zone rosse, sospesi i versamenti di IVA e ritenute in scadenza a metà novembre anche per alberghi, agenzie di viaggio e tour operator, attività queste non esplicitamente chiuse dall'ultimo DPCM. Durante il fine settimana, intanto, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via agli accrediti automatici dei contributi a fondo perduto per oltre 211.000 imprese, in totale circa 1 miliardo per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie che avevano chiesto in estate gli aiuti previsti dal decreto rilancio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra l'altro arriva il bonus fino a 500 euro per l'abbonamento a internet a banda ultralarga associato all'acquisto di un tablet o di un PC. Il voucher, nato sull'onda dello smart working e della didattica a distanza obbligati dall'emergenza Covid, non è universale come il bonus mobilità, ma è destinato questo bonus ai cittadini con ISEE inferiore a 20.000 euro, raggiungendo dunque, secondo gli analisti del mercato tecnologico, una platea potenziale di circa 400.000 famiglie in Italia. Nell'intenzione del governo si amplierà presto però anche a fasce di reddito più alte, oltre che alle imprese finora escluse dalla misura. Il bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e sulla fornitura di un personal computer o tablet. Per ottenerlo bisogna rivolgersi direttamente a uno degli operatori accreditati che hanno presentato offerte approvate dalla Infratel Italia, cioè la società del Ministero dell'Economia incaricata dell'attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata dell'attuazione dei piani banda larga e ultralarga del governo. E parliamo adesso del vaccino. La Pfizer e la BioNTech spiazzano ed entusiasmano il mondo con l'annuncio. Il vaccino è efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione. Entusiasmo ma anche cautela. La Presidente della Commissione europea anticipa che ci saranno 300 milioni di dosi per l'Europa. Grande notizia, twitta il Presidente Trump, mentre il Presidente eletto Biden avverte che il vaccino dà speranza, ma la strada è ancora lunga. Notizie incoraggianti, così dice il ministro Speranza, ma serve ancora tanta prudenza. E questo fa volare i listini. Milano ha chiuso in rialzo del 5,43%, riportandosi ai livelli del 6 marzo, quindi pre-lockdown in Lombardia. Parigi chiude col 7,57%, al top dal 5 marzo. Francoforte 4,95%, al massimo dal 21 febbraio. Madrid 8,5% e Londra 4,67%. E poi nel corso di questa puntata cercheremo di capire con un esperto come funziona questo vaccino e se le speranze sono fondate. All'estero adesso, negli Stati Uniti, Donald Trump non intende ancora cedere, ma il presidente eletto Biden è già al lavoro. Scelta la squadra di esperti che cercherà di arginare la diffusione del virus. Appena avremo il vaccino, dice, sarà distribuito gratis. Si è aperta su due binari paralleli la settimana americana, con Joe Biden già in piena attività politica e Donald Trump asserragliato nella Casa Bianca a twittare. Biden è partito dalla priorità numero uno, l'emergenza pandemica, col varo di una task force incaricata di contrastare il coronavirus, coordinata da tre scienziati. Nella task force anche l'italo-americana Luciana Borio, esperta in biodifesa. Qui la state ascoltando nell'audizione di 6 anni fa al congresso su Ebola. So please, I implore you, wear a mask. Presentando la task force, Biden ha lanciato un messaggio chiaro: indossate una mascherina per salvare migliaia di vite americane, una mascherina non è un atto politico. Sul fronte opposto, Trump ha ricevuto una magra consolazione da Mosca, con Putin, unico leader mondiale, rimasto ad attendere l'ufficialità dei risultati prima di congratularsi con Biden. Tra le sfide che attendono il presidente eletto Biden, anche i difficili rapporti commerciali con l'Europa, eredità proprio di Trump. Il commissario al commercio europeo Dombrovskis ha confermato che Bruxelles farà valere nelle prossime ore i suoi diritti di rappresaglia, imponendo dazi sui prodotti americani per 4 miliardi di dollari, conseguenza diretta della disputa tra Airbus e Boeing. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, con una strage familiare premeditata alle porte di Carignano in provincia di Torino. Un uomo, Alberto Accastello, 40 anni, operaio, ha sparato alla moglie di 38 anni, Barbara Gargano, e i due gemellini, Alessandro e Aurora. Subito dopo ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ammazzato. Aurora, la gemellina, è in rianimazione in condizioni che i medici definiscono disperate. Barbara, la moglie, voleva separarsi, ma il marito non accettava la sua decisione. Il solito copione. E ancora la cronaca: Alberto Genovese, l'imprenditore digitale finito in cella con l'accusa di aver stuprato nel suo appartamento di Milano una 18enne dopo averla stordita drogandola, ha manifestato, dice il GIP, ha manifestato una spinta antisociale elevatissima e un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quello delle donne. Lo scrive appunto il GIP Tommaso Perna nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Alberto Genovese, che dice: un uomo con una personalità ritenuta altamente pericolosa, giacché del tutto incapace di controllare i propri impulsi violenti e la propria aggressività sessuale. È pertanto elevato il pericolo che tale propensione possa trovare ulteriore sfogo, dice, scrive il giudice, in altri fatti illeciti dello stesso tipo o di maggiore gravità. I viaggi di Radio 24. Regioni gialle, arancioni, rosse sono i colori dell'emergenza a scandire i movimenti nelle città italiane. Dove le scuole sono chiuse e gli spostamenti sono limitati, torna ad alleggerirsi il carico anche sui mezzi pubblici, la vera nota dolente di queste settimane. Dove si continua a muoversi restano gli affollamenti. In questa prima settimana delle nuove regole vi portiamo nelle città italiane per capire come si vive e come ci si muove. Cominciamo andando a Milano con Anna Maria. Bollini riattaccati su autobus e metro, tornelli e contapersone ritarati, avvisi per passeggeri aggiornati e flotte rinforzate. Anche con l'aiuto di società private, la segnaletica nelle stazioni e nelle pensiline degli autobus non è stata mai tolta in Lombardia, a Milano, e oggi siamo arrivati in una metro con posti alternati a Cadorna, una delle 113 stazioni sotterranee di Milano, snodo di pendolari e cambi di linea metro, e alla prova dei fatti l'impatto è evidente. Certo, è ridotta la capienza massima di treni e mezzi pubblici del 50% contro l'80% di prima, ma i numeri dei passeggeri erano già più bassi tra smart work e didattica a distanza, e così si permette a chi ha necessità per lavoro di muoversi. Io vengo da Seveso, da lunedì a venerdì, è un'ora. Sempre meglio che venire con la macchina, comunque. Zona bande nere. Devo dire che la metropolitana, prendendola a quest'ora, non è, quindi mi va. Da casa ci metto 20 minuti, ma sono venuta in macchina io. Io prima avevo l'abbonamento del treno, lavoro qui a Cadorna, tra l'altro. Qui alla procura dei minori. Non possiamo mettere i nostri programmi da remoto. Questo è anche il momento e l'occasione per un rilancio della mobilità del futuro. Come ci spiega l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Pietro Granelli, coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI. Come comuni stiamo tutti dicendo che bisogna puntare di più sul trasporto pubblico e permettere molta mobilità sostenibile, e quindi usare di più la micromobilità come la bicicletta, lo scooter elettrico. Aumentare l'offerta proprio adesso investendo, sì, ma anche diversificare la mobilità sostenibile. Su questo puntano Milano e la Lombardia, anche con incentivi su elettrico a due ruote, monopattino, bici, con quasi 50 km di piste ciclabili a Milano e con un raddoppio dei ciclisti, ma sorpresa anche tanti a piedi. Qui in Duomo sto andando a piedi. Le librerie sono aperte. Sì, sono aperte, ma c'è poca gente. Speriamo che la gente si invoglia a leggere, almeno viene qualcuno a comprare. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di una buona notizia: i riders, i ciclofattorini di Just Eat avranno un contratto regolare dal prossimo anno. Ne parlerò nel corso di questa puntata col country manager di Just Eat Italia. Stare senza di te, io no, stare senza di te, non si può. Roma ha dato oggi l'ultimo saluto a Stefano Dorazio, storico batterista, grande paroliere dei Pooh, scomparso venerdì sera all'età di 72 anni a causa delle complicanze da Covid-19. Doveroso omaggio prima in Campidoglio, da dove il feretro è partito per attraversare le strade nel centro della città, scortato dai motociclisti della polizia locale di Roma Capitale, come già avvenuto solo pochi giorni fa per Gigi Proietti, e arrivare quindi nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dove alle 15 oggi si sono tenuti i funerali, una celebrazione in forma privata in rispetto della normativa anti-Covid, che però non ha impedito a tanti fan del gruppo di rendere omaggio al musicista con un applauso, seppure da lontano. Tanta la commozione tra i presenti, tra i quali non mancavano i volti noti. Sono arrivati naturalmente i compagni di una vita visibilmente provati, Roby Facchinetti, che durante le esequie ha letto per Stefano la preghiera degli artisti, poi Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, accompagnati dalle rispettive mogli. La moglie di Dorazio, Tiziana Giardoni, ha tenuto a ringraziare i presenti e soprattutto Stefano, per il quale ha scritto: «Sei sempre stato la mia forza, accanto a te sono diventata una persona migliore. Tutte le mattine», ha ricordato commossa, «non mi faceva mancare un sorriso, l'ho amato tantissimo». Presente anche Silvia di Stefano, che Dorazio ha sempre considerato come una figlia. Stare senza di te, io mai stare senza. Sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata che ho appena terminato con voi, raccontarvi le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, e poi cominciamo ad approfondire i temi con gli ospiti. Roberta Giordano sempre con voi, per voi lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte se volete scrivere i vostri commenti, oppure i WhatsApp al 349 238 6666. Isa scrive: sono d'accordo con Ricciardi, avete sentito il suo avvertimento all'inizio, dice: se qui non rispettiamo le regole, altro che Natale sereno. Dice: Ostia ieri piena di gente, via del Corso piena di gente, io lavoro a casa ed esco poco, mi chiamano covidiota, dice. Insomma, idioti naturalmente sono gli altri. Allora, era nell'aria e la notizia si è praticamente concretizzata, più o meno, credo, concretizzata in serata. Adesso ne parliamo dopo le anticipazioni fornite a un certo punto nel pomeriggio dal presidente dell'Abruzzo Marsilio. Il ministro della salute Roberta Speranza firmerà o ha firmato, adesso lo chiediamo al nostro ospite, un'ordinanza che sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia, il comitato tecnico scientifico col governo e le regioni, prevede il passaggio di alcune regioni, 5 esattamente oggi, dalla zona gialla alla zona arancione, quindi da una zona di rischio diciamo più basso a una zona di rischio più alto, qual è quella arancione. Le 5 regioni sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Tutto questo passaggio ci sarà, e rispondo di nuovo ad Alessandra, a partire da mercoledì 11 novembre, quindi dopodomani. Questo mentre si attende invece di sapere che cosa ne sarà della Campania, che sapete che è in zona gialla, ci sono state tante polemiche la scorsa settimana, ne abbiamo parlato, persino il presidente di Regione De Luca vorrebbe che fosse in zona rossa, però da alcune indiscrezioni sembra che resti in zona gialla, ma questo lo sapremo domani. Intanto invece voglio coinvolgere il più divulgativo dei costituzionalisti italiani, che è il professor Alfonso Celotto. Buonasera professore, bentornato. Grazie, mi fa piacere essere divulgativo ed esplicativo. Bene, in questa situazione di poca chiarezza. Già, è di questo che si ha bisogno. Professor Celotto, farei sentire però il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, che a fronte dei dati e di questo passaggio da zona gialla a zona arancione dice: d'altronde con i contagi, i dati che abbiamo, è inevitabile. La situazione epidemiologica per quanto riguarda Covid-19 continua a peggiorare nel nostro paese e si registra un RT di circa 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100.000 abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri notiamo una tendenza all'aumento e soprattutto c'è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione giustifica l'adozione di interventi più restrittivi, soprattutto nelle regioni più colpite. Ed ecco perché questo passaggio. Ricordo che in zona rossa ci sono Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria e adesso anche la provincia di Bolzano, l'ha voluto il governatore di Bolzano, e poi zona arancione, quindi Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia. In zona gialla rimangono per il momento Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Veneto. Allora, professor Celotto, quindi ci spiega, intanto è stata firmata questa ordinanza o no? Perché era lì. È stata firmata a fine pomeriggio ed entra in vigore però mercoledì, perché quindi si lascia un giorno di assestamento per dare piena conoscenza al cambio delle regole, perché comunque in zona arancione le cose diventano più restrittive, nel senso che non puoi uscire dalla regione, non puoi uscire dal comune, se non per giustificato motivo, i ristoranti e i bar sono chiusi, quindi la situazione diciamo è intermedia nella sua gravità, però comunque sono misure abbastanza severe. Quindi le grosse differenze con la zona rossa, vedo che però la DAD, per esempio, didattica a distanza, è prevista solo alle superiori ancora nella zona arancione, sì, no? Solo alle superiori, la grande differenza è che non ti serve l'autocertificazione. Quindi la zona arancione non serve per circolare l'autocertificazione? Allora, la notte dopo le 22 serve in tutta Italia, perché l'Italia nazionale è tornata in coprifuoco nazionale. L'ultima volta che fu proclamato fu nel luglio 43 dal governo Badoglio, quindi per capire la gravità della situazione. Yeah. Ecco. Quindi comunque è grave. Invece in zona arancione comunque non puoi uscire dal comune senza autocertificazione, però all'interno del comune puoi muoverti. Quindi puoi ancora fare sport all'aperto rispettando le distanze, però liberamente, puoi andarti a fare una passeggiata, puoi andare a trovare i congiunti, quindi ti puoi ancora muovere liberamente. C'è più apertura in questo, nella zona arancione. Nella zona rossa tutto ciò è vietato invece. Però professore, mi viene da dire che in realtà però l'attività motoria sportiva anche nella zona rossa uno la può fare a non troppa distanza da casa. In prossimità. Anche giusto? In prossimità all'abitazione o alla residenza, quindi quella è sempre ammessa l'attività sportiva individuale, però comunque ci sono queste misure che si stanno stringendo. A me sembra un sistema più ragionevole questo della differenziazione fra le regioni a seconda del livello di gravità nelle varie settimane. Dovrebbe essere uno strumento più flessibile che dovrebbe riuscire a contenere meglio questa fase differenziata, però comunque è un momento difficile, perché il tasso che si ha di positività è circa il 5% della popolazione, cioè il che significa che se noi facessimo il tampone a tutti oggi in Italia probabilmente abbiamo 4-5 milioni di positivi. Su 60 milioni. Più o meno. Professor Celotto, invece dicevamo che per quanto riguarda la Campania c'è attesa per domani, però io leggevo da indiscrezioni che dovrebbe rimanere gialla, nonostante si sia detto finora che insomma la Campania, Napoli in particolare, è una situazione molto pesante. De Luca, che vorrebbe che fosse zona rossa, aveva annunciato il lockdown, però poi secondo De Magistris, che era qui il sindaco di Napoli venerdì, non avrebbe avuto il coraggio di farlo, chiedendo al governo invece un lockdown addirittura nazionale, che però lei dice sarebbe poco, e anche evidentemente per il governo in questo momento poco funzionale, perché è meglio differenziare. Quindi. Beh sì, è poco ragionevole. D'altra parte abbiamo capito che in questo momento bisogna cercare di salvaguardare maggiormente le esigenze sociali, economiche, scolastiche. In fondo a marzo diciamo è stato anche facile dire chiudiamo tutto e tutti e basta. Adesso invece sta cercando delle chiusure mirate, quindi va ammirato il presidente della provincia di Bolzano, dell'Alto Adige, che ha detto qui siamo in una certa situazione, chiudiamo. In Campania bisogna ancora capire la situazione, anche perché ricordiamolo che in Campania al momento è l'unica regione con tutte le scuole chiuse per scelta del governatore regionale, eppure la regione è ancora gialla. Quindi c'è questa situazione un po' di incertezza che sembra che domani debba essere definita. Quindi allora abbiamo detto tutto questo per quanto riguarda il passaggio dalle zona gialla all'arancione di 5 regioni che ripeto sono Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia e Sicilia da mercoledì 11 novembre. Significa quindi da martedì notte, mezzanotte un minuto? Da mezzanotte un minuto, sì, da mezzanotte un minuto entra in vigore, anche perché tradizionalmente l'entrata in vigore delle nuove regole non è mai immediata. Noi parliamo di vacatio legis, cioè questo tempo di entrata in vigore, e tradizionalmente erano i giorni di cavallo per coprire l'intera regione, l'intera provincia, e quindi si racconta che Napoleone disse: da Parigi con 15 giorni vai ovunque a cavallo, e quindi entro 15 giorni entra in vigore la legge in tutta la Francia, no? E questa è un po' l'idea. Adesso con i nostri mezzi basta un giorno e mezzo, ne sono tutti informati. Una cosa importante, sì, che ci si può spostare senza autocertificazione ancora tra due regioni verdi, anche se attraverso un arancione o una rossa. Cioè io dal Lazio posso andare in Veneto anche se attraverso la Toscana che è arancione, o un pezzo di Lombardia che è rossa, purché ovviamente non mi fermi. Ah, ecco, perché infatti era la domanda anche di un ascoltatore, di più di un ascoltatore, no? Quello di attraversare, di dover passare una regione a un'altra e di mezzo esserci magari delle regioni rosse o arancioni. Sì, è un'immagine un po' strana. Mi ricorda l'attraversamento di quella strana enclave russa che c'è al nord della Polonia, no? Kaliningrad, che tu piombano il treno, lo chiudono, l'attraversi e non puoi scendere. Un po' l'idea è quella, però io in questo momento posso andare da Roma a Venezia, per dire, attraversando una serie di regioni rosse e arancioni, purché non mi fermi in quelle regioni e non scenda. Professor Celotto, chiede questo ascoltatore, ma qual è la definizione legale di prossimità, no? Quando si dice si può passeggiare o fare attività sportiva in prossimità? Mi fa davvero una domanda difficile, perché io me l'ero studiata a marzo questa cosa, perché è una nozione giuridicamente vaga, in quanto la prossimità in diritto viene usata in diversi ambiti con misure del tutto diverse. Le faccio due esempi. C'è la prossimità aeroportuale, che è la prossimità quindi in cui non puoi costruire costruzioni alte. In prossimità di un aeroporto si calcolano 5 chilometri, date le dimensioni dell'aeroporto. Invece, quando si parla di incidenti stradali, in prossimità di un incrocio si parla di 30-40 metri. Quindi è relativo, insomma. È relativo. Si diceva durante la quarantena di marzo che era o attorno all'isolato, perché più o meno l'isolato, o dai 200 ai 500 metri. Però non c'è una nozione indiscussa di prossimità, deve essere qualcosa di ragionevole. Addirittura, credo la provincia di Trento fece una cosa molto interessante, disse che qualunque distanza che copri a piedi è da ritenere prossima. Quindi se uno va a piedi fino a Roma, in realtà... Sì, è un po' eccessivo, ci vogliono alcuni giorni. Scherza, certo, però bisogna sempre mescolare il diritto e il buonsenso, questa è una regola. Mi sembra un'ottima sintesi. Poi per chiudere, Chiara dice, buonasera, probabilmente si rifà di nuovo al concetto di prima dell'attraversamento di regioni, dice, se si è in Liguria si può sempre tornare alla propria abitazione principale in Lombardia? Allora, in qualunque regione sei, di qualunque colore, hai sempre diritto, hai una pistola con un sol colpo, tornare alla tua residenza. Quello lo puoi fare sempre, quindi anche se uno è in Lombardia, la Liguria adesso è gialla, credo. Sì, la Liguria, no, è arancione la Liguria. Scusa, ormai il passaggio. Sono diventato daltonico rispetto a questa situazione. Dobbiamo stare sul pezzo, sì. Sì, se uno in questo momento è a Genova e vuol rientrare a Milano, Milano è rossa, si fa la sua bella autocertificazione, dichiara che è residente e rientra senza problemi, però poi non esce più. E così anche poi l'ultima domanda, perché poi il professore deve andare. Leonardo dice, posso andare dalla Toscana, che adesso appunto diventa da mercoledì arancione, mercoledì pomeriggio voglio andare in Romagna, la Romagna è gialla, giusto? No, sì. Ci vai solo per comprovate ragioni, perché da mercoledì si può lasciare la regione arancione solo per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o d'urgenza. Quindi può andare in Romagna se ha il medico in Romagna e solo lì lo trova. O se lavora, o se c'è qualcuno se che sta molto lì, male lo può comprovare. C'è un'emergenza clamorosa per cui deve andare in Romagna. Io comunque mi fermerei volentieri, perché so che potremmo andare avanti pure, no, con domande no, no, ne avremo, professor Celotto, ne avremo di domande, di dubbi, maratona infinita, purtroppo, nostro malgrado. Grazie professor Alfonso Celotto, grazie, buona continuazione, di qualsiasi colore sia. Molto bene, adesso ci fermiamo quindi per una pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per i WhatsApp che è sempre 348 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siate certi che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. A proposito di una notizia importante, perché qui Roberta Giordano, io qui presente dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, ve le racconto tutte le notizie più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi le approfondisco quelle in primo piano con gli ospiti. Allora, parlavamo poco fa insieme al costituzionalista Alfonso Celotto dell'ordinanza del ministro Speranza che ha firmato e in base a una serie di dati ha spostato 5 regioni dalla fascia di rischio gialla, quella di rischio più bassa relativa al Covid, alla fascia arancione. Vi riassumo brevemente quali sono adesso le varie regioni della zona rossa, dove vengono applicate le misure più restrittive. Sono, adesso le vado a riprendere, la zona rossa sono Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria e la provincia di Bolzano. Zona arancione, quindi Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia. La zona gialla, Basilicata, Campania, che aspetta domani la decisione se essere spostata o no, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Veneto. E la Lombardia, appunto, è dalla scorsa settimana in zona rossa. L'area più colpita è quella della Brianza, con una situazione particolarmente preoccupante a Monza, tanto che il direttore generale della azienda sanitaria territoriale di Monza ha detto: in questo momento Codogno siamo noi. Vi ricordate che Codogno è stato il primissimo comune insieme a Euganeo, quindi Codogno in Lombardia, Euganeo in Veneto, a dover chiudere, a diventare zona rossa tra febbraio e marzo scorso, con un lockdown totale, perché lì c'erano stati i primi focolai. E quindi diciamo che la Brianza è veramente in una situazione molto preoccupante, con il suo ospedale, il principale ospedale della Brianza, il San Gerardo, che versa in, diciamo, in condizioni molto difficili. Ha detto il direttore generale: abbiamo assunto 110 nuovi operatori, di cui 40 medici e il resto infermieri, ma avendo 340 operatori positivi a casa parliamo di una goccia in confronto a un esercito fermo. Ne voglio parlare direttamente col sindaco di Monza, che è Dario Allevi, e saluto e ringrazio per la disponibilità. Sindaco, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Quindi è effettivamente così grave, insomma, la situazione nella sua città, Allevi, a Monza? Sì, la situazione è drammatica, soprattutto, come ha ricordato lei, diciamo, sul fronte ospedaliero. Noi abbiamo lanciato un grido d'allarme da diversi giorni, quando dico noi, appunto, il direttore generale dell'azienda ospedaliera, il sottoscritto, cercando di ricevere degli aiuti che per ora sono arrivati con il contagocce, perché come ricordava lei ci sono tanti medici e infermieri, purtroppo rispetto alla prima ondata, quella della primavera scorsa, che non possono dare il loro straordinario contributo perché sono a loro volta a casa in quarantena colpiti da questo maledetto virus. Per cui 450 pazienti, che sono già tantissimi, che oggi ha il San Gerardo, sono il massimo possibile, perché noi a marzo eravamo arrivati a ricoverarne 600, di cui una novantina in terapia intensiva, però avevamo l'organico al completo. Oggi con queste 340 persone a casa non sono i letti che mancano, ma sono proprio i medici e gli infermieri. E quindi, sindaco Allevi, a chi vi siete rivolti? Siamo rivolti innanzitutto alla Regione Lombardia, chiedendo loro che si applicasse quel sistema di solidarietà regionale che aveva ben funzionato nella prima ondata, perché noi nella prima ondata eravamo rimasti parzialmente fuori dai territori più colpiti, per cui noi abbiamo aperto il nostro ospedale, appunto, che era arrivato a ricoverare 600 pazienti, che il 75% di questi arrivavano da fuori provincia, arrivavano da Bergamo, da Brescia, da Cremona, da Lodi, da quelle province maggiormente colpite. Oggi questi territori siamo noi, insieme a Milano, insieme a Varese, fortunatamente per gli amici bergamaschi, pesciani, adesso loro stanno vivendo un momento di relativa calma rispetto ai numeri di contagi che abbiamo noi, e quindi chiediamo sostanzialmente alla Regione Lombardia la reciprocità, cioè che adesso facciano quegli ospedali di questi territori quello che abbiamo fatto noi qualche mese fa. Quindi, sindaco Levi, vorreste più che ricevere personale sanitario poter mandare lì in queste province che stanno un po' meglio e che voi avete aiutato durante la prima ondata, che ospitassero dei vostri pazienti? Sì, uno e l'altro, perché è chiaro che se ci arrivassero medici e infermieri potremmo continuare a salire nei numeri per arrivare a quel numero di 600 che era stato il nostro massimo di marzo, e quindi andrebbe benissimo. Però con questi nuovi positivi che abbiamo ormai da diversi giorni in città e in provincia, non so se bastano, per cui servirebbero sia nuovi medici e infermieri, sia un aiuto e un contributo da parte di alcuni ospedali che oggi, per fortuna, hanno numeri molto molto più ridotti dei nostri, per cui servirebbero entrambe le cose, perché, ripeto, noi oggi stiamo andando avanti a 1.400 nuovi positivi al giorno in provincia. Anche solo 40-50 che devono chiedere le cure ospedaliere sono numeri che appunto arriveremo a 600 in 3 giorni, per cui oggi, ripeto, non possiamo permettercelo perché mancano i medici, ma ammettiamo che riusciamo a fare un miracolo, tra 3 giorni siamo di nuovo dal punto di partenza, anche perché le dimissioni avvengono più lentamente dei ricoveri. Sindaco Levi, voi ha detto avete chiesto aiuto alla Regione Lombardia, la Regione vi ha risposto? La Regione ci ha risposto dicendo che ci sta lavorando, oggi ha trasferito una ventina di pazienti in altri ospedali e domani o dopodomani dovrebbe partire, diciamo, un pre-triage organizzato da Reu, che verrebbe installato all'autodromo di Monza, dove manderebbero lì le ambulanze, ci sarebbe una sorta di pre-check dei pazienti che, in base al codice verde, giallo o rosso, poi andrebbero e verrebbero direzionati negli ospedali che in questo momento hanno numeri meno importanti dei nostri. È un inizio, speriamo che basti, perché, ripeto, a questi livelli di contagi non so quanto queste misure possano bastare, però è un inizio, ecco, vorremmo un intervento un pochettino più importante, anche perché, a differenza della prima fase, oggi anche quel personale che fortunatamente non si è ammalato e non è a casa in quarantena è anche più stanco di marzo, perché ha già vissuto un'emergenza H24 per 2 mesi qualche mese fa, poi hanno dovuto lavorare H24 per ricostituire l'ospedale vecchia maniera, quindi ricreando tutti i reparti, poi hanno dovuto smembrare tutti i reparti per ricreare quasi un ospedale totalmente Covid, per cui certo. Va bene chiedere tanto a questi, chi li ha chiamati eroi, chi li ha chiamati gli giusti, gli angeli. Anche loro sono umani e hanno dei limiti, giustamente. Sindaco Levi, allora diceva un primo passo della Regione Lombardia, però ovviamente i passi devono essere fatti molto molto velocemente per quella che sono le condizioni così a rischio e al limite che lei stava descrivendo, quindi auguriamoci davvero, e poi magari ci riaggiorniamo su questa cosa, che la Regione Lombardia sia molto reattiva su questo. Sindaco Dario Allevi, sindaco di Monza, io la ringrazio molto, abbraccio lei e Monza, sperando grazie, che tutto poi vada per il meglio. Grazie. Grazie mille, grazie a lei, sindaco. Un abbraccio anche a lei di nuovo. Grazie, buona serata. C'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E che notizia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, mentre l'Italia e anche tutto il mondo continua a combattere contro il coronavirus, oggi è apparso come un piccolo grande raggio di sole che è un po' rischiarato, insomma, questo lungo periodo buio. Si parla del vaccino, il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, che sarebbe efficace, secondo l'annuncio di Pfizer, nel 90% delle infezioni, e ormai questo vaccino nella fase 3 di sperimentazione, che è ancora in corso. L'annuncio appunto è stato del presidente di Pfizer, che ha fatto esultare tutto il mondo. L'OMS ha detto sono notizie incoraggianti, il virologo della Casa Bianca Fauci ha detto pare un'efficacia straordinaria. Avete sentito che le borse, i listini sono volati, e l'azienda ha annunciato 50 milioni di dosi già nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021, e l'Europa ha fatto sapere che prenota 300 milioni di dosi di questo vaccino. Allora coinvolgo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo di Chiara Fama. Professore, buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti. Quindi questo vaccino potrebbe essere, se davvero andasse in porto, il più veloce della storia? Ma sicuramente interessanti questi risultati, non è per essere un bastian contrari, però è chiaro che bisogna vedere ancora i dati dal punto di vista scientifico, ma sicuramente un'azienda come questa non è che mette una faccia senza avere questo dato. È chiaro che comunque sulla possibilità che questo vaccino ci sia, ma soprattutto dia i suoi effetti, bisognerà aspettare del tempo, perché sicuramente stanno producendo loro, ma anche altri produttori, perché ci sono circa 200 progetti di vaccino con una dozzina circa di vaccini arrivati, che stanno arrivando alla fine della verifica, del periodo di valutazione, però poi ci vorrà del tempo per l'industrializzazione, l'organizzazione della vaccinazione, il fatto che probabilmente ci vogliano due dosi per dare una risposta anticorpale adeguata. Insomma, per dire tutto ci vorrà un annetto, ecco, per dare un'efficacia complessiva. E rimarrà anche poi questo dubbio, purtroppo, che ad oggi alcune indagini sulla percezione dell'utilità della vaccinazione ci dice che il 40% dei campioni intervistati non ha poi questo, come dire, grande desiderio, anche se ci fosse, di vaccinarsi. Quindi sicuramente sarà determinante per convivere molto meglio, direi per praticamente sconfiggere il coronavirus, il vaccino o comunque i vaccini, perché sicuramente a seconda del territorio, dei paesi, la vaccinazione probabilmente avverrà con tipologie di vaccino diverse. Quindi tempi un po' più lunghi di quanto si possa prevedere, perché chiaramente, insomma, come diceva lei, bisogna valutare tutti gli effetti collaterali, poi anche la durata dell'immunità effettiva, una serie di cose, però diciamo per il momento quindi una notizia positiva, ma come dice lei, con cautela. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, poi ci sarà modo naturalmente di aggiornarsi man mano che arrivano delle notizie su questo vaccino della Pfizer. Arrivederci a tutti. Grazie professore, grazie, buonasera. Oh, a proposito di buone notizie, questa è decisamente concreta, non è così, diciamo, una cosa di portata mondiale, però per il ciclo Fattorini arriva questa notizia, no? I cosiddetti riders che portano il cibo a domicilio con le biciclette o con i motorini, li vediamo sfrecciare da tanto tempo nelle nostre città e da diverso tempo naturalmente anche loro hanno cominciato a rivendicare i loro diritti di lavoratori, le legittime tutele, no? Visto che per il momento non erano molto salvaguardati in Italia. Bene, Just Eat, una delle principali società di questo tipo, che fa parte di justeattakeaway.com, ha annunciato che introdurrà dall'anno prossimo anche in Italia Scoober, cioè il modello di delivery di consegna già attivo in alcuni dei paesi del gruppo, che inquadra i riders come lavoratori dipendenti. E ne parlo con il country manager di Just Eat Italia, che è Daniele Contini. Buonasera Contini. Buonasera, buonasera. Quindi avete preso questa buona decisione? Sì, diciamo che, come accennava poco fa, Just Eat è entrata a far parte di un gruppo più ampio che si chiama adesso Just Eat Takeaway, questo è successo quest'anno e c'è un nuovo management e abbiamo deciso, diciamo, di adottare un modello che è già attualmente utilizzato con molto successo in altri 8 paesi europei. Quindi dal punto di vista del gruppo, diciamo, non è una novità in sé, ma abbiamo lavorato per renderla una novità anche per quanto riguarda l'Italia, un paese dove fino ad oggi abbiamo utilizzato un modello differente che si basava soprattutto sui lavoratori autonomi che effettuavano le consegne. Ora questo, diciamo, andrà a cambiare a partire dal 2021 ed è una scelta in cui crediamo, perché appunto crediamo che questo settore, che è quello della consegna del cibo a domicilio, possa e debba svilupparsi ancora molto, ma debba farlo in maniera sostenibile, no? Quindi vogliamo iniziare ad offrire appunto un lavoro di tipo quello del lavoratore dipendente, quindi lavoro vero, diciamo, da un certo punto di vista, completo di assicurazione, vantaggi, tutele, tutto quanto, diciamo, è previsto da questo tipo di lavoro. È una scelta etica da un certo punto di vista, crediamo, responsabile, e che vuole andare nella direzione di rendere sostenibile appunto la crescita di questo tipo di categoria, nella quale crediamo molto e nella quale operiamo dal 2011. Quindi noi siamo stati i primi in Italia a cominciare con Just Eat e abbiamo quasi compiuto 10 anni di attività da quando abbiamo lanciato in Italia. Bene, quindi un'ottima notizia, giustamente le diceva, soprattutto dal punto di vista etico, e poi questi lavoratori che effettivamente sono dei lavoratori avranno un lavoro vero, come diceva lei, Daniele Contini. La ringrazio e quindi buona continuazione, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie Contini, ricordo country manager di Just Eat Italia. E con questa notizia vi lascio brevemente per aggiornarvi poi alle 22.